Purtroppo questa mattina ci siamo risvegliate vedendo che appunto il nostro spazio era stato devastato dalle porte agli interni, verosimilmente per insomma, portare via della roba che infatti purtroppo manca anche dallo spazio, ma purtroppo, come dire, non visto il clima che in questo periodo vediamo, ecco, nei nostri quartieri purtroppo non ci stupisce più di tanto, ecco, in effetti. Per questo, come dire, più che soltanto parlare di quanto è successo, quello che volevamo fare anche alla luce non di questa cosa qui, ma di tutta una serie di eventi che abbiamo visto succedere in Bolognina, ci tenevamo più che altro a rilanciare su percorsi, come dire, di auto-organizzazione dal basso, come l'assemblea di domani di quartiere, che ci sarà a Fondo Comini, per, come dire, parlare effettivamente di quelli che sono i bisogni, ecco, dei nostri quartieri, più che, diciamo, urlare a ladro, ecco. Sì, infatti appunto nel post sottolineate che non vi interessa puntare il dito su singole persone, però parlate di un sistema che ha fallito e che della Bolognina che deve cambiare. Sì, questo che dicevo poco fa appunto rispetto al fatto che non è purtroppo soltanto ad Excentrale che vediamo sempre più spesso succedere cose di questo tipo, e pensiamo però allo stesso tempo che la risposta non possa essere sempre soltanto quella di più controllo, più polizia, più sicurezza in termini di punizione, quanto più forse una cura e un'attenzione maggiore a quelli che sono i bisogni del quartiere, che come emerge insomma poi costantemente da quelle che sono anche tutte le esperienze invece positive del quartiere, quindi di auto-organizzazione dal basso, reti di solidarietà eccetera, sembrano sempre di più, come dire, essere forse più servizi, risorse, spazi per poter permettere in qualche modo al quartiere di vivere in maniera più che di dignitosa, ecco. Anche recentemente, anche in una festa che avete fatto il 25 aprile, avete sottolineato alcuni dei problemi che vive il quartiere, come anche quello del crack, quindi è una questione di abbandono che subisce la Bolognina? Sì, vediamo insomma da una parte questo abbandono totale, dall'altro sempre le stesse retoriche trite e ritrite rispetto al creare, ecco, dei nemici all'interno appunto dei nostri quartieri stessi, tra chi poi alla fine in realtà la marginalità sociale la subisce. Proprio per questo, per esempio, il crack è uno dei sintomi di questo malessere che vediamo dilagare sempre di più. Allo stesso tempo però vediamo che i servizi, per esempio, per limitare e curare quella che è una vera e propria pandemia, invece vengono sempre più definanzializzati. Per esempio, l'assemblea di domani pomeriggio era già in programma? Sì, in realtà era un momento che ci si era volute dare un po' proprio dopo l'appuntamento del 25 aprile in Bolognina, che ci ha forse anche riscoperte in qualche modo capaci di creare e rafforzare delle reti di quartiere tra appunto tutte le realtà, tutte anche persone singole che si sono attivate per costruire una festa che poi è stata una bellissima sorpresa per tutte e tutti, e quindi già insomma da prima ovviamente anche di quanto è successo stanotte si voleva in qualche modo un po' consolidare quella rete lì, ma anche costruire proprio effettivamente delle proposte anche più pratiche, ecco, di iniziative, di cose da poter creare e portare effettivamente al quartiere, ora che ci siamo dette quelle che sono le cose che non ci piacciono, le cose che invece vorremmo, e quindi iniziare un po' a pensare insomma come dare gambe anche a tutte queste cose che anche adesso, no, mentre ne parlo, sembrano aria fritta, ma che invece forse possono trovare il modo di concretizzarsi. A maggior ragione dopo quello che è successo anche a voi, quindi. Sì, sicuramente, ecco, sarà una buona occasione anche per appunto sicuramente continuare a portare fuori insomma questa serie di disagi che purtroppo oggi hanno toccato a noi, ma come dire li abbiamo visti succedere tante tante volte in questi mesi, ecco.